2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Come sempre vi consiglio di riascoltare la nostra puntata attraverso il servizio podcast con il nostro super podcast. Tutte le nostre interviste in versione integrale solo nell'edizione podcast di 2024. Questa è stata la settimana in cui la borsa americana ha attribuito a Tesla una capitalizzazione più alta rispetto a quella di Ford e sempre più vicina a General Motors, che attualmente è la casa automobilistica con il valore di mercato più alto negli Stati Uniti. E tutto ciò è interessante perché Tesla è in perdita, Ford e General Motors no, dopo aver certamente passato dei periodi bui, e Tesla ha consegnato 25.000 veicoli nel trimestre, ha battuto le attese degli analisti, ma comunque stiamo parlando di una casa automobilistica molto giovane che potrebbe arrivare a poco più di 100.000 veicoli consegnati alla fine dell'anno. Si punta, almeno così ha detto Elon Musk, si punta a 500.000 veicoli il prossimo anno, ma Ford e General Motors vendono invece milioni di veicoli. Ma quello che invece la borsa sta guardando e osservando sono le prospettive, come è successo con altre società che basano il proprio sviluppo sulla tecnologia. Tesla sta disegnando, indicando a tutto il settore un trend di sviluppo e la borsa premia questa casa automobilistica anche per questo motivo. Allora, questa è sicuramente stata una notizia interessante, ma una delle storie che ha fatto più discutere in settimana riguarda quello che è successo ad una persona che ha comprato un piccolo apparecchio chiamato Garaget, che è una crasi tra garage e gadget. Garaget, allora, si collega alla porta elettrica del garage, molto americano come gadget, appunto. E si collega anche ad internet, facilmente con il sistema wifi di casa, e permette di fare alcune cose, non tantissime. Allora, aprire e chiudere la porta a distanza dal proprio smartphone. Visto che si collega a internet, c'è un'app e io posso aprire e chiudere. Diciamo che fino a questo punto uno potrebbe dire: vabbè, ho il telecomando, il classico telecomando della porta o del cancello, e posso farlo anche così. La cosa che è interessante è che lo si può fare in remoto quando uno magari si è dimenticato di chiudere la porta. Lo può fare anche a chilometri di distanza, anche dall'altra parte del mondo. Infatti, una delle caratteristiche di questo strumento è che verifica anche se la porta è aperta o chiusa. Poi uno può discutere sull'utilità o meno di questo strumento, in effetti non mi sembra che sia indispensabile, però ci sono persone che l'hanno comprato. È stata lanciata anche una campagna su Kickstarter o su Indiegogo, comunque in una di queste piattaforme di crowdfunding. Ma il protagonista della storia di questa settimana è che ha fatto appunto discutere, non è stato molto contento e ha fatto una recensione particolarmente negativa su internet. L'ideatore di questo strumento, stiamo parlando ovviamente di una piccola società, quindi con poche persone, l'ideatore ha risposto anche piuttosto piccato. Ma la sorpresa è che il giorno dopo la risposta quell'utenza è stata disabilitata, cioè tu mi fai una recensione negativa e io ti disabilito, visto che stiamo parlando di una cosa connessa ad internet e io conosco le credenziali con le quali tu, cliente mio, stai accedendo a quel sistema, ti disabilito l'utenza. Allora, il tema del controllo a distanza, ovviamente questa è una storia paradossale. Stiamo parlando di una piccola società, di una persona che ha reagito in modo, poi si è scusata, insomma tutto si è ricomposto, ma ovviamente quello che hanno commentato alcuni esperti di tecnologia questa settimana è questo problema del potenziale controllo a distanza o comunque effettivo controllo a distanza. Anche in presenza di sistemi automatici questo funziona. Magari tu fai una cosa sbagliata secondo le regole e l'accordo che tu sottoscrivi per utilizzare questi sistemi, e in modo molto brutale e in modo molto preciso magari ti viene disabilitato un servizio, cosa che nel mondo reale non accade così velocemente e così puntualmente, perché esiste una certa flessibilità che conosciamo in tanti ambiti. Questo è un tema di dibattito, ne abbiamo parlato anche a 2024. Ovviamente stiamo parlando di tantissimi sistemi che funzionano e hanno caratteristiche assolutamente interessanti, affascinanti, ben viste da molti consumatori, ma uno dei lati nuovi di questa evoluzione verso la internet degli oggetti e anche questa possibilità di controllo a distanza, che apre tutta una serie di scenari anche impensabili ad oggi. Ripeto, questa è una storia paradossale, ma ci fa riflettere su questo tema. Adesso alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. La prima notizia arriva da Roma, dove il tribunale ha ordinato il blocco di Uber Black, che è il servizio di auto con conducente che offre Uber in Italia ed è l'unico servizio esistente in Italia di Uber, mentre negli altri paesi ci sono vari livelli di servizio. Ovviamente non entriamo nel nostro programma nel merito del dibattito sul trasporto pubblico nelle città, ma è ovvio che regole scritte prima dell'avvento delle app devono essere riscritte, pensando a quanto il mondo è cambiato e tutto il sistema deve superare le rigidità attuali che sono antitecnologiche e sicuramente inefficienti. Diciamo che il mondo veramente si è trasformato talmente tanto che le nuove regole devono ovviamente tenere conto di tutto ciò, aprendo il mercato a queste novità tecnologiche. Dunque, per cercare di contenere il fenomeno di chi crea video rubando contenuti originali ad altri, YouTube ha inserito un limite di visualizzazioni al di sotto del quale l'utente non guadagna nulla. Quindi chi fa questa attività solo per guadagnare soldi è fortemente scoraggiato. Allora, solo chi supererà nel complesso 10.000 visualizzazioni, cosa che non è facilissima, può iniziare a guadagnare e ricevere una quota della pubblicità che viene visualizzata prima o durante i video. La logica è che se uno pubblica video usando, potrei dire anche rubando contenuti di altri, difficilmente avrà molte visualizzazioni, perché poi la gente se ne accorge. E questo limite appunto serve per scoraggiare questo vizio. Ovviamente stiamo parlando di un settore dove la pubblicità è in forte crescita, quindi c'è un grande valore, e chi è alla ricerca in modo fraudolento di soldi sta tentando strade come quelle che ho descritto, cioè pubblicare video rubando contenuti da altri per poi guadagnare dalla pubblicità. Il Parlamento europeo ha approvato l'accordo sui costi all'ingrosso applicati in Europa fra gli operatori di telefonia mobile, rimuovendo così l'ultimo ostacolo all'entrata in vigore delle nuove regole sul roaming nell'Unione europea. Allora, dal 15 giugno gli extra costi che venivano applicati, che vengono ancora oggi applicati quando uno telefona o naviga su internet all'estero, non verranno più applicati. Si pagherà la tariffa di casa sia per la voce che per i dati, ma come abbiamo detto in una puntata di 2024 recentemente, ci saranno alcuni limiti. Diciamo che la macrostruttura di questi limiti è stata definita, però alcune modalità di applicazione dovranno essere adeguate nei prossimi mesi, nei primi mesi di applicazione. Quindi sicuramente sarà necessario vedere e osservare da vicino questo mercato. Un'ultima notizia riguarda Amazon, che ha comprato per 50 milioni di dollari i diritti per trasmettere attraverso il servizio Prime Video, che è la propria offerta video per tutti i clienti Prime, 10 partite del campionato di football americano della NFL. Non è la prima volta che un evento sportivo viene trasmesso in diretta via internet e in giro per il mondo. Soprattutto negli Stati Uniti ci sono federazioni sportive che vendono direttamente ai tifosi, agli utenti, ai clienti gli eventi sportivi. Quindi in assoluto non è una novità. La cosa interessante è che per questo tipo di eventi oggi le piattaforme di distribuzione prevalenti sono il satellite o i sistemi broadcast terrestri come il digitale terrestre, e lo sappiamo benissimo se guardiamo alle offerte di sport in Italia. Si sta affacciando in modo piuttosto potente un nuovo tipo di player, cioè le grandi corporation che operano su internet, Amazon, Google, in effetti anche Google aveva provato a prendere i diritti per queste partite, stanno entrando in questo mercato. Per il momento, ad esempio, il più grande gruppo al mondo, la più grande azienda al mondo che offre servizi di streaming, che è Netflix, pare che non sia interessata agli eventi dal vivo, quelli che richiedono di essere visti in diretta, ma vedremo come replicherà le mosse, ad esempio, come quella di Amazon. Facebook, Google e altre grandi aziende della rete cercano di contenere, di arginare il fenomeno delle cosiddette fake news, le notizie false o comunque quasi false, create per vari motivi: influenzare le scelte dei consumatori, dei cittadini, degli elettori, oppure per raccogliere pubblicità. Io creo una notizia che, se non proprio falsa, è comunque quasi falsa, ma è talmente, attira talmente l'attenzione che uno clicca e io di conseguenza vendo pubblicità. Insomma, tutti questi fenomeni, poi anche altri fenomeni, sono riconducibili al cosiddetto fenomeno delle fake news. Ovviamente questo fenomeno nell'era di internet e nell'era dei social network, che sono utilizzati da milioni, anzi, per un social network direi più di un miliardo e mezzo di consumatori, ha un effetto moltiplicatore che è straordinario. La sfida è tutt'altro che facile, perché individuare già lo è difficile normalmente. Pensiamo, se guardiamo ai numeri della rete internet, questo diventa sempre più difficile. Anche perché oggi buona parte di questo lavoro deve essere fatto manualmente, devono essere gli uomini, perché gli sistemi di intelligenza artificiale non sono ancora così intelligenti, diciamo così, per fermare il fenomeno. Allora, che cosa si può fare? Che cosa si sta facendo? In questi giorni hanno fatto un annuncio, nelle stesse ore quasi, sia Facebook che Google. Stiamo parlando di due annunci che di fatto cercano di aiutare il lettore, dando qualche suggerimento. Nel caso di Facebook stiamo parlando di una cosa più educativa, quasi per dire: caro lettore, caro consumatore, ti spiego come devi fare per capire se una cosa è vera o è falsa. Le persone di Facebook e di Google in questi giorni sono a Perugia, dove c'è il Festival del Giornalismo, e c'è anche Simone Spezia, che ha parlato con Laura Bononcini, che è responsabile delle policy di Facebook in Italia. Quello che sta cominciando ad arrivare sul newsfeed degli utenti sono dei messaggi che rimandano a una risorsa dettagliata all'interno del nostro Help Center, che è stata scritta assieme a First Draft Initiative, che è questo gruppo di aziende tecnologiche, ma anche giornalisti e esperti. E all'interno di questi consigli ci sono, per esempio, guardare l'URL del sito dal quale proviene la notizia, piuttosto che leggere bene il titolo, vedere se ci sono altre fonti che riportano la stessa notizia. Quindi una serie di indicazioni su come la persona, l'utente, può farsi la sua propria opinione su un tema o su una notizia che legge su Facebook. Questa cosa l'abbiamo lanciata in 14 paesi, tra cui l'Italia. In Italia appunto appare anche sulla pagina dell'Help Center, con tutte le risorse, anche il logo di Fondazione Mondo Digitale, che è un'associazione che si occupa di media literacy in Italia e con la quale vorremmo poi lanciare una campagna specifica anche magari nelle scuole, nei confronti dei giovani anche. Questa è un'iniziativa di adesso. In generale state cercando di impostare, mi sembra di capire, una strategia per quello che da molti, non da tutti, viene percepito come un problema. Assolutamente, perché ci rendiamo conto che il tema è molto complesso ed avendo noi come obiettivo quello di mettere in contatto le persone con informazioni rilevanti per noi, è chiaro che avendo un numero di utenti veramente molto importante nel mondo ci sentiamo responsabili anche di come affrontare questo tema. E quindi stiamo cercando di affrontarlo attraverso tre macro aree. Innanzitutto agire sulle possibilità di monetizzazione, sulle fonti di guadagno, perché ci rendiamo conto che chi promuove notizie false o comunque non del tutto vero spesso lo fa per guadagnarci soldi, quindi cerca di metterci, di guadagnarci con la pubblicità. Questo è contrario appunto alle policy di Facebook, quindi sono quelli che fanno spam, sono quelli che cercano di promuovere truffe attraverso i nostri strumenti pubblicitari. Questo non è consentito, quindi noi agiamo per bloccare questo tipo di profili. Il secondo punto è lo sviluppo di strumenti che consentano alle persone di segnalare o contenuti che sono contrari alle nostre policy oppure appunto notizie che secondo loro sono false, e noi possiamo agire anche in termini di classificazione sul newsfeed di queste notizie oppure vedere anche altri segnali. Per esempio, se queste notizie dopo essere state lette non vengono condivise, questo può essere un segnale. In generale poi strumenti significa anche lavorare con organizzazioni di fact checking terze, come abbiamo fatto appunto, come stiamo sperimentando in America ma anche in Germania e in Francia, per appunto consentire alle persone di segnalare un contenuto potenzialmente falso. Le agenzie di fact checking rivedono questo contenuto e se è potenzialmente falso appare all'utente come disputed, quindi non necessariamente. Quindi una soluzione non puramente algoritmica, per così dire. Esatto, basata sul feedback dato appunto da non solo una mai, ma più appunto associazioni, organizzazioni di fact checking. Però anche lì siamo sempre alla fine basati sul consentire alle persone di avere maggiore contesto attorno alla notizia e quindi di crearsi loro la loro opinione, perché alla fine questi contenuti non li rimuoviamo, li identifichiamo come potenzialmente non del tutto veri, ma alla fine è sempre l'utente che dovrà pensare e farsi la sua opinione. Altro annuncio, sempre per cercare di arginare o comunque attirare l'attenzione sul fenomeno delle fake news, è quello che ha fatto Google in questi giorni, in queste ore potremmo dire. Simona Panseri, sempre al microfono di Simone Spezia, responsabile della comunicazione di Google Italia. Innanzitutto questo è un sistema che si concretizza in un'etichetta che identifica quali sono i contenuti di fact checking prodotti dagli editori e dalle organizzazioni che fanno fact checking. Quindi già alcuni mesi fa l'abbiamo introdotto negli Stati Uniti e in alcune lingue e oggi lo allarghiamo a tutti i paesi, sia in Google News sia all'interno di Search, del motore di ricerca. La logica è questa: quando c'è un contenuto in cui una fonte effettua la verifica di fatti, questa fonte ha la possibilità di utilizzare l'etichetta, che viene tecnicamente chiamata la tag, che indica che quello è un articolo che contiene del fact checking, e a quel punto il lavoro che facciamo noi, diciamo, che fa l'algoritmo di Google News, è evidenziare che questo tipo di contenuto è un articolo di fact checking nel momento in cui compare contestualmente ad articoli o a contenuti che riguardano l'argomento di cui è fatto il fact checking. Quindi in sostanza lavora in positivo, non in negativo, cioè non è là a dirti questo articolo è potenzialmente falso, ma ti dice questo articolo è stato verificato. Non esattamente, quello che ti dice è questo articolo è un articolo che verifica dei fatti. Quindi consente alle persone che cercano delle informazioni di capire se qualcuno ha fatto la verifica dei fatti di un determinato argomento e quale è il risultato di questa verifica dei fatti. E in effetti è anche possibile, ci aspettiamo che succeda, che fonti di fact checking diverse facciano articoli su uno stesso tema giungendo a conclusioni diverse. E entrambe le conclusioni verranno evidenziate, e il valore di questa cosa sta nel fatto che consente alle persone anche di capire quale livello di consenso c'è rispetto ad un tema, rispetto ad un'affermazione. rispetto ad un argomento specifico. Ammesso che ci sia un problema, questa non è evidentemente la soluzione del problema. Indubbiamente non lo è. Intanto credo che il problema dell'affidabilità dell'informazione o dell'utilizzo di informazioni a fini propagandistici, per esempio, esista da sempre, naturalmente, indipendentemente da internet, ed esiste naturalmente anche in internet. Io credo che il punto principale sia che le cosiddette fake news non sono mai o quasi mai una questione di bianco o nero. Difficilmente è del tutto vero o del tutto falso. Il punto è che molto spesso sono parzialmente vere, alcuni aspetti possono essere contestati, altri no. Quindi questo non è la soluzione del problema, ma ci auguriamo che contribuisca a far emergere il lavoro che un ricco ecosistema che si occupa di fact-checking, che è cresciuto in questi anni, sta facendo, per consentire alle persone di accedere a punti di vista diversi e formarsi un'opinione critica e personale. Avete sentito che sia Laura Bononcini di Facebook che Simona Panseri di Google rimandano all'attenzione, alla consapevolezza dei lettori che deve o dovrebbe esserci, ma questo non vale solo nella lettura delle notizie, vale un po' in generale quando si naviga in internet. Pensate al fenomeno del phishing: ti arriva una mail di qualcuno che ti dice aggiorna i tuoi dati bancari, e beh, dovresti accorgerti che quella non è una mail vera, ma è una mail generata da qualcuno che ti vuole attirare su un sito per rubarti le credenziali per entrare sul tuo conto bancario. E qui ovviamente ci vuole consapevolezza, perché a volte queste email sono fatte molto bene. Però soprattutto nel campo dell'informazione saremmo un po' illusi se pensassimo che milioni di utenti possano avere le competenze, le conoscenze per capire se una notizia è vera o falsa, ma molto spesso non siamo di fronte a una cosa vera o falsa, bianca o nera, lo abbiamo in parte anche detto nelle interviste, molto spesso le cose sono sfumate. Questo era un ruolo attribuito all'informazione con la I maiuscola degli anni passati. Oggi le cose sono molto più complesse, molto più complicate, quindi una parte di responsabilità ce l'hanno anche queste grandi infrastrutture internet, questi grandi social network o servizi internet. Non è un caso che in Germania sia stato approvato un disegno di legge che prevede multe fino a 50 milioni di euro per i social network che non rimuovono le notizie, bisognerà capire come si fa a capire se una cosa è vera o falsa, però che non rimuovono le notizie false in 24 ore. E anche in questo caso, visto che facciamo riferimento alle leggi da cambiare nel settore dei trasporti, anche qui probabilmente bisognerà fare qualcosa, visto la potenza che hanno questi mezzi e anche la conseguente responsabilità. Poi la responsabilità ce l'hanno anche i mezzi di informazione, che sono poi le fonti primarie che vengono utilizzate all'interno dei social network, e su questo non ci piove, e ovviamente bisogna cercare di realizzare prodotti editoriali migliori rispetto a quelli che oggi ci sono in circolazione. E noi cerchiamo di fare la nostra parte. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, il programma di tecnologia della nostra radio. Adesso voglio parlarvi di Spotify, che ha firmato un nuovo accordo con Universal Music, che è una delle case discografiche più grandi al mondo, che apre la strada ad una serie di nuove collaborazioni in termini di marketing, promozione della musica, ma sicuramente la cosa più importante è un accesso senza precedenti ai dati, così scrive il comunicato stampa congiunto di Spotify e di Universal Music. Questo significa che Universal potrà analizzare i dati che i 100 milioni di utenti di Spotify generano ogni minuto, ogni secondo. Sono 100 milioni, 50 quelli a pagamento. Ci saranno anche altre possibilità per gli artisti della Universal, cioè di scegliere se fare uscire i nuovi album solo per gli abbonati premium, cioè quelli che pagano, per 2 settimane con una sorta di anticipazione rispetto a tutti gli altri. Ma ripeto, la cosa più importante è questo accesso ai dati, perché tutto quello che uno fa nell'ascoltare un brano, anche se si ferma a metà, se lo ascolta solo per 10 secondi, se lo riascolta 1000 volte, se riascolta solo i primi 20 secondi 1000 volte, insomma, tutto quello che si fa genera dati che vengono analizzati, e analizzando questi dati si scoprono tantissime cose. Addirittura, sicuramente succederà, si possono anche creare brani musicali sulla base dell'analisi dei dati che vengono che viene fatta ogni giorno, o ogni settimana, ogni mese, ogni anno. Cioè, se si scopre che a tutti piace il country, probabilmente si spinge l'offerta su quel lato, anche sul lato produttivo. Pepe Moder, uno degli esperti dei Master del Sole 24 Ore, Digital Senior Advisor. Pepe, bentornato a 2024. Grazie Enrico. Tu sei da poco tornato ad una manifestazione pressoché sconosciuta in Italia, ma molto famosa e nota, sicuramente nell'ambiente digitale. Cioè, tutti gli esperti di social media, di tecnologia in generale, conoscono South by Southwest, scritto SXSW. Che cos'è? È una conferenza interactive che si tiene ogni anno. Interattiva nel senso il contenuto digitale, interactive, social media, business, molto orientata al lancio delle startup, che si tiene a Austin da ormai parecchi anni. Stati Uniti, sì. La prima settimana di marzo, sì. Tendenzialmente, e dove sono state nel tempo presentate tra le più grandi startup, che poi sono diventate le grandi aziende digitali. Per esempio, quest'anno ricorreva il 10° anniversario della presentazione ufficiale di Twitter, che è stato fatto ad Austin 10 anni fa, appunto. Airbnb è stata lanciata ad Austin, e ne altre startup. Quindi molte startup che nel momento in cui vengono lanciate uno le guarda e dice ma chissà che cosa, poi diventano Twitter, Airbnb, cioè è interessante. Sì, è una conferenza diffusa su 15 location, alberghi, sale conferenza, e partecipano circa 25-30 mila persone che vengono da tutto il mondo, quindi non è solamente americana. Pochissima la presenza italiana, ahimè, tanti che vengono dall'Europa, da UK, dai mercati scandinavi, e tantissime startup, tantissime, sia sì, americane che provenienti da tutto il mondo, per imparare e per presentarsi. Allora, devo dire che se ne è parlato poco, da sempre se ne parla molto poco in Italia, sia perché vanno pochi italiani, ma anche perché molto probabilmente è difficile interpretare quello che succede all'interno di questa città. Tra l'altro, Austin negli ultimi anni è una città che è cresciuta molto grazie proprio a questo tipo di manifestazione, grazie alla tecnologia, alle start-up. Dropbox è nata lì, per esempio. Pensa un po'. È suo headquarter, ci sono tante start-up che stanno spostando dalla California ad altri luoghi tipo Raleigh, tipo Seattle, tipo Austin, il loro headquarter, per ovviamente vantaggi economici, infrastrutturali, ma anche perché c'è un bellissimo humus. Certo, insomma un'atmosfera molto frizzante che appunto si esprime una volta all'anno all'inizio della primavera sostanzialmente in questa manifestazione. Noi ci siamo sentiti poco tempo fa e tu mi dicevi anche in quel caso, ma con tutta una serie di derive di cui poi parleremo, si è parlato tantissimo di intelligenza artificiale, che i nostri ascoltatori sanno, ne abbiamo parlato anche 2024, è uno dei grandi temi di questo momento. Forse si discute fin troppo di intelligenza artificiale, ma direi che, visto che in generale si parla poco di tecnologia e si capisce poco di tecnologia nel nostro paese, almeno in alcuni strati sociali, va bene anche che se ne parli troppo, no? Raccontaci un po' che cosa si diceva su questo tema. È un argomento che è stato ampiamente trattato, sia da un punto di vista delle startup che proponevano nuovi servizi, sia da un punto di vista dei grandi pensatori. Ray Kurzweil, che è uno dei più importanti visionari e futurologi che lavora con Google, sostiene che entro il 2029 le intelligenze artificiali saranno in grado di avere una coscienza paragonabile a quella umana. Beh, diciamo 2030, non capisco per 2029, cioè questo calcolo da dove arriva, ho letto anche io. In realtà era perché lo aveva proiettato su una curva di apprendimento, lui è dagli anni 70 che lavora sulle intelligenze artificiali, l'aveva proiettato su una curva di apprendimento dell'intelligenza artificiale e alla fine per il suo algoritmo gli viene a fare 2029, poi ovviamente che sarà, se è il 2031 o 2032 non penso che cambi molto. Anche perché 2029 sembra che uno ci abbia pensato, proprio 2030 dice vabbè ha fatto più o meno. Esatto. Sì. La verità è che l'intelligenza artificiale è un ambito all'interno del quale stanno investendo tantissimo. Google, Microsoft, IBM con Watson, Amazon con il suo Alexa, Facebook ci sta investendo, cioè, e poi, ci stanno investendo anche grandi e piccole startup. Certo, poi la lista è lunghissima, cioè quasi tutte le grandi aziende della tecnologia stanno investendo in qualche modo in intelligenza artificiale e o varie sfaccettature e o vari ambiti, perché come abbiamo detto recentemente 2024 intelligenza artificiale è un macro tema, come dire internet, poi all'interno ci sono mille altre cose. Machine learning è una parte dell'intelligenza artificiale, insomma ne abbiamo parlato recentemente, quindi potete anche andare a riascoltare in archivio. Ma il vero punto di domanda che è emerso da queste discussioni è le aziende di software produrranno ognuna una sua intelligenza artificiale o ci saranno delle macro intelligenze artificiali che verranno messe a disposizione del mercato 4, 5, 6, 10 e poi verranno, come dire, customizzate con dei servizi appositi per poi erogare il servizio al cliente finale, per cui il Watson per l'automotive, il Watson per il farmaceutico, il Watson per i supermercati e via dicendo. Questo è il grande tema, perché ovviamente sposterà gli investimenti e sposterà ovviamente le risorse, quindi le energie che verranno prodotte. Ricordiamoci anche che le intelligenze artificiali funzionano quando vengono programmate, ossia quando gli viene insegnato in maniera corretta quello che loro devono fare, le istruzioni, ma anche quando gli vengono dati il maggior numero di dati, di informazioni che loro possono processare e possono utilizzare per costruire delle risposte sulla base delle domande che vengono fatte o delle richieste che vengono fatte dal consumatore. Certo. Quindi si sviluppa tutto il mercato dei produttori di informazioni che servono poi per arricchire la conoscenza dell'intelligenza artificiale. Certo. Quindi una delle ipotesi che si sta facendo e una delle ipotesi su cui le grosse aziende di tecnologia stanno lavorando è io costruisco un cervello, dopodiché, cosa che già oggi in parte funziona nel mondo cloud, costruisco un cervello, dopodiché tu azienda, magari piccola azienda o anche grande azienda che però fa altro, utilizzi questo cervello a mo' di servizio. Esatto. Per fare XYZ. Per fare, per esempio, un servizio clienti. Oppure per fare come fa Harley Davidson, che utilizza l'intelligenza artificiale per interpretare i big data. I big data sono uno degli argomenti che negli ultimi anni sono sulla bocca di tutti, se ne è parlato, si è fatto migliaia di convegni. La verità è che i big data sono talmente big che gli esseri umani fanno veramente fatica a gestire questa quantità di dati, quindi a raccoglierli, sistematizzarli, archiviarli, interpretarli e costruire poi dei piani di azione su questi big data. Anzi, questo probabilmente è uno dei punti chiave. Assolutamente. Recentemente, non so perché nessuno cominciamo noi, recentemente io ho fatto una slide dove ho messo big data, ma poi ho cambiato, ho detto very big data. Non capisco perché oggi si parla di ultra banda larga e per i big data siamo sempre solo big data, invece oggi veramente la quantità di dati è enorme e cresce minuto dopo minuto. Non solo cresce minuto dopo minuto, ma crescono anche le fonti. Ogni giorno un'azienda è in grado di scoprire all'interno dei suoi processi nuovi flussi potenziali o esistenti di raccolta dati. Tant'è che l'intelligenza artificiale e big data si incontrano proprio su questo campo, perché l'intelligenza artificiale non solo può essere lo strumento che permette di mettere a sistema e di interpretare, quindi raccogliere, sistematizzare, archiviare e interpretare, quindi dare un senso a tutti questi dati, ma anche e soprattutto di identificare all'interno dei processi quali sono i dati mancanti che si possono raccogliere, che vanno a completare le informazioni. E tu dicevi che a questa manifestazione South by Southwest ci sono molte startup e quindi anche nel mondo dell'intelligenza artificiale si stanno presentando al mercato molte startup che si occupano di questo? Non solo che si occupano di questo, ma startup che stanno utilizzando l'intelligenza artificiale. Un esempio è Like to Know It. è una piattaforma prevalentemente mobile che grazie a un'intelligenza artificiale è in grado di riconoscere gli abiti che gli influencer indossano quando postano, i blogger, gli influencer postano quando producono i contenuti, e di generare subito un link all'e-commerce migliore per l'acquisto di quell'abito. Cioè, spiega. Like to Know It è un'applicazione, la scarichi sul tuo mobile. Navighi online, vedi su un blog, vedi su Pinterest, vedi su Instagram un'immagine, questa immagine la prendi e la trascini come link, la metti dentro Like to Know It, e l'intelligenza artificiale è in grado di riconoscere gli oggetti all'interno, gli oggetti di moda all'interno, i vestiti, gli abiti, borse, orologi, occhiali, pareo, tutto quello che vuoi, e di generare ovviamente poi il link all'e-commerce. Immagina la forza e la portata di questo strumento, che si rivolge poi ai vari, faccio esempi, Zalando, Yux e via dicendo, e dice: vuoi essere primo nella lista? Vuoi essere secondo nella lista? Vuoi fare una promo? Io posso generarti, no? Certo. Ricordo agli ascoltatori che, ad esempio, nel nuovo S8 di Samsung, che uscirà alla fine del mese sul mercato, c'è una cosa simile in collaborazione con Amazon. Uno fa la fotografia ad un oggetto e automaticamente, adesso questo è un po' più semplice perché il caso che tu hai descritto prevede una fotografia completa e quindi la capacità di riconoscere oggetto per oggetto. Invece in questo caso io faccio la foto, che ne so, qui davanti ho un mouse, faccio la foto del mouse, posso con riconosciuto con, lo posso comprare. Qui il grosso driver è però lo spirito di imitazione. Vedo un influencer, cioè una persona alla quale vorrei assomigliare, mi piace tantissimo quella borsa, la voglio comprare perché l'ho vista in quella foto, da quella foto io riconosco che borsa è e la posso comprare immediatamente. È molto forte. Secondo te, e secondo anche le persone che hanno partecipato a questo appuntamento, che poi è un appuntamento che dura una settimana, giusto? Sì, 5 giorni. Sì, quindi vari decine, centinaia di appuntamenti, piccoli, grandi, questa, perché molti mi dicono l'applicazione, l'implementazione di intelligenza artificiale nei processi che noi abbiamo oggi nelle aziende è una cosa complicata, quindi si sta parlando tantissimo di questo, ma poi in realtà farlo è molto complicato. È un po' come dire industria 4.0, è un gran caos, non è una cosa facile, no. Quindi farlo bene, poi se uno dice ho comprato quel software, ho fatto industria 4.0, vabbè, non capito niente. Ecco, cambiare veramente i processi grazie alla tecnologia e fare nuovi servizi, nuovi prodotti, cambiare proprio la natura delle aziende, magari facendo più o meno le stesse cose, è molto complicato, molto complesso. E quindi c'è chi dice, ragazzi, però sta roba la vedremo nel giro di parecchi anni, forse più rispetto al 2029. Più che rispetto al 2024. Oh, anche. Sì. Ma Enrico, qui ti lancio invece però una provocazione. L'auto a guida autonoma. Google ha già fatto quasi 2 milioni di chilometri con l'auto a guida autonoma. Lo avremmo mai pensato? Avremmo pensato che ci mancano ancora 15 anni, 20 anni, 30 anni, 10 anni. Sì. La verità è che le aziende tradizionali non sono strutturate per gestire competenze e conoscenze al loro interno che gli permettono di fare questi cambiamenti nei processi e integrazione all'interno di questi processi di conoscenze nuove. Quindi tendono a reiterare dei meccanismi che conoscono e a cercare di mettere dentro, di siringare dentro una novità all'interno di un processo che già conoscono, di un meccanismo che loro già implementano. Chi li sta superando è chi parte in realtà invece da zero, quindi non ha dei processi o dei processi produttivi anche, come dire, già installati, e quindi è molto più agile, molto più veloce e non parte da regole già precostituite. Allora, qui bisogna, come dire, farsi un po' la punta al cervello e avere il coraggio di dire: o io, grande azienda, decido di fare degli spin-off e quindi di costruirmi all'interno dei laboratori di innovazione ai quali do l'opportunità di poter viaggiare svincolati dalle regole della mia impresa, e poi trovo il modo, devo costruire il percorso che possa permettere di riportare all'interno dell'azienda l'innovazione, ma che impatta sul modello di business, sull'organizzazione e solo sui processi. Il digitale non è un progetto, il digitale è un cambiamento del modo di pensare a come fare le cose. oppure se no altrimenti il rischio è quello di essere completamente sorpassati a destra. Ti faccio due esempi rapidissimi. Sì. Kodak, che è fallita, che ha chiuso, sì, aveva approcciato il digitale come prodotto e quindi è passata dalla pellicola alle memorie, alle schede di memoria, senza invece pensare che stava cambiando il comportamento del consumatore, che invece in realtà non era più interessato a stampare, perché aveva dei supporti sui quali si poteva portare le foto dove voleva, molto più comodi. Chi invece sta pensando in maniera diversa è Canon, no? Che invece compra startup perché sta considerando che il consumatore, le persone cambiano il loro modo di interpretare la realtà, la fotografia, e quindi si è comprata Lifecake, che è una startup inglese, la quale ha costruito un'applicazione che fondamentalmente è un Instagram per raccontare fotograficamente la crescita dei bimbi, no? Della propria famiglia, da condividere in una cerchia Morkeldori Stata. Ora, probabilmente non sarà il nuovo Instagram e non diventerà così popolare, però il concetto di dire passo dal prodotto, la macchina fotografica, che ha dei costi enormi di ricerca e sviluppo, che ogni anno devo tirare fuori delle nuove feature che mi permettono di andare sul mercato, ho un prodotto che abilita invece un servizio e il servizio mi costa molto meno svilupparlo, ecco, è un cambio di mentalità, è un cambio poi di processo ed è un cambio anche di modello di business. Condivido, e ci sono anche degli esempi in Italia. Io ho intervistato qualche mese fa una azienda storica italiana che produce macchine per il mondo dell'alimentazione, della carne, che ha fatto proprio questo ragionamento. Dice: devo introdurre tecnologia all'interno delle mie macchine, che fondamentalmente sono stupide, e benissimo, oggi le facciamo meglio dei cinesi, ma domani i cinesi le faranno come noi, oppure i vietnamiti o gli indonesiani, o chiunque sia. Chiunque sia, dobbiamo sfruttare, cercare di capire che cos'è la internet degli oggetti e introdurre questo tipo di tecnologia nelle nostre macchine. Hanno fatto una startup, e la cosa che mi è piaciuta di più, al di là della tecnologia, è che questa startup lavora anche per i concorrenti, perché giustamente nella logica che tu raccontavi poi questa, la tecnologia è diffusa. La piattaforma abilitante all'interno di un mercato non ha barriere concettuali nei confronti di competitor o di newcomer. Nuovi entranti. Dobbiamo dire qualcos'altro su intelligenza artificiale o passiamo a blockchain? Ma che è una cosa che sembra complicata, ed è complicata però. Non è per niente facile. L'intelligenza artificiale è uno degli strumenti che può aiutare anche lo sviluppo della blockchain, no? Quindi questo software che permette all'interno di una transazione finanziaria di individuare in maniera univoca le due persone che si devono scambiare denaro. Persona deve scambiare denaro. Adesso gli esperti di Bitcoin ci tireranno le orecchie, perché stiamo ovviamente semplificando. Ricordiamo appunto che blockchain è collegata alla nascita di Bitcoin, è quel meccanismo, quell'algoritmo, quel software che permette di garantire le transazioni di Bitcoin. Alcuni mi scrivono e mi sollecitano a parlare di Bitcoin e di blockchain, perché il tema è sicuramente molto interessante, molto affascinante, ha anche dei risvolti effettivamente complessi, però il succo di tutto questo è che blockchain è uno strumento che è sotto analisi di tantissime startup, di tantissime istituzioni, banche, assicurazioni, aziende di ogni tipo, per alcune sue caratteristiche, cioè è un sistema decentrato, è un sistema estremamente sicuro, è un sistema che raccoglie la fiducia di decine, centinaia, migliaia e milioni di nodi in tutto il mondo, è permanente, insomma potrei aggiungere tantissimi aggettivi, è un'invenzione straordinaria. E soprattutto potrebbe non avere bisogno degli intermediari finanziari che oggi formano il mercato. Sì, sorpassa a destra tutti i sistemi centralizzati. Perfetto. A partire dallo Stato, a finire alle banche, le assicurazioni, i sistemi di pagamento, eccetera, eccetera. Uno degli argomenti che sono emersi nelle varie discussioni era l'opportunità dell'utilizzo degli algoritmi di blockchain, che ci siamo detti permettono a due o più persone all'interno di una transazione di essere unicamente riconosciute, anche se non si conoscono direttamente. Ora immaginiamoci i progetti di crowdsourcing, quindi quei progetti dove ci sono persone che sono distribuite in tutto il mondo, cioè geograficamente possono essere ovunque, e ognuna di queste persone per la sua parte dà un contributo allo sviluppo di un progetto. Perfetto, il più famoso è Wikipedia. Ad esempio. Però ce ne sono tantissimi. Ce ne sono ne altri, sì. Ma anche le stesse aziende quando lanciano progetti di crowdsourcing di natura creativa o di natura processuale, quindi di creazione di nuovi di processi. E immaginiamoci l'opportunità di utilizzare questo algoritmo per identificare esattamente chi ha fatto cosa e quindi poter attribuire ad ogni singola persona in maniera univoca e incontrovertibile il contributo che ha dato al progetto e quindi poi poterlo remunerare. Oggi i progetti di crowdsourcing sono molto spesso, Wikipedia hai giustamente citato tu l'esempio più emblematico, sono di natura collaborativa ma, come dire, gratuita. No? Sì, sì. Invece immaginiamoci l'opportunità di poter identificare esattamente le persone quanto hanno contribuito. Enrico che ha scritto 7 righe, Pepe 2, quindi Enrico verrà remunerato per le 7 righe che ha scritto, quantità e ovviamente anche qualità, e invece Pepe solamente per le 2. E non ci sono, come dire, e ognuno di loro vede attribuito esattamente il lavoro che ha fatto. Quindi possibilità di costruire team interfunzionali di lavoro su progetti sparsi nel mondo tra persone che non necessariamente hanno già lavorato tra di loro. Certo, in modo abbastanza semplice. Tutto ciò confrontato con invece il modo complicato di oggi, perché immaginate come si fa con gli strumenti di oggi a poter pagare a una persona 7 righe in un lavoro dove magari quelle 7 righe sono molto importanti. Non sono solo molto importanti, ma ce ne sono 7 righe oggi, 3 righe domani, certo. 2 righe dopodomani, e sono, come dire, elementi aggiunte incrementali di lavoro a progetti estremamente complessi e estremamente distribuiti. Certo. Stessa cosa sta succedendo anche nel mondo della musica, ma potremmo citare altri casi. Ci sono alcuni cantanti che stanno pensando di utilizzare blockchain o meccanismi che si basano su blockchain o simili per bypassare gli intermediari di oggi, cioè le case discografiche. In questo modo, quando io ascolto una canzone su un sistema di streaming, direttamente pago il cantante per le volte che ascolto la canzone. Non solo, ma addirittura potresti pagare il cantante e potresti pagare i singoli strumentisti, ognuno per come ha contribuito suonando il suo pezzo, uno o più pezzi all'interno di quell'album. È straordinario perché si viene riconosciuto il lavoro che viene fatto da ogni singola persona. Certo, stiamo ancora parlando di progetti sperimentali, certo. Però le premesse ci sono tutte. Un ultimo punto che mi sembra interessante si chiama design thinking. Facile, difficile, che cos'è questo nuovo trend? Questa Ma nuova allora, no, attenzione. Il design thinking è una professione, quindi la capacità di una persona, di un designer, di un creativo di pensare a un oggetto, quindi un prodotto o un servizio, nell'ottica della fruizione del consumatore, cioè del cliente finale, di chi lo utilizzerà, come lo utilizzerà, ecco cosa gli serve, e si parte appunto dalle esigenze del cliente finale. Perfetto. E questo non è nuovo. E questo no, però, questo non è nuovo. Cosa è nuovo? Cos'è nuovo? John Maeda, che è uno degli esperti massimi, lavora in automatica, insomma è uno dei massimi guru del design thinking, ogni anno presenta il suo report a South by Southwest e ha insistito su un punto: anche i creativi devono imparare a fare codice, perché devono imparare a pensare a progetti e servizi che siano scalabili per miliardi di persone e non più per la loro per il loro riferimento geografico del target o del mercato di 100 persone, 1000 persone, 100.000 persone. Cari creativi, vi salutiamo con questo messaggio, puoi aggiungere? Sì, beh, un punto interessante secondo me è che per la prima volta il Vaticano si è presentato per il tramite del vescovo Paul Tiger, responsabile dei social media della Santa Sede, il quale ha partecipato a South by Southwest con l'obiettivo di imparare a capire come si sta evolvendo oggi la relazione tra le persone e tra le persone e gli elementi metafisici. Non si può dire altrettanto purtroppo dei nostri imprenditori, che dovrebbero prendere esempio per affrontare le sfide della rivoluzione digitale. Devo dirti che la presenza italiana, a parte uno sparuto gruppo di persone e una tavola rotonda organizzata da TripleSense, molto interessante peraltro, sulla customer experience, che ha visto 20-25 persone provenienti da tutto il mondo nello stand dell'Istituto per il Commercio Estero. Devo dire che gli italiani c'era l'Istituto per il Commercio Estero. Questo c'era, sono stati bravi e mancavano gli imprenditori. Ripeto, a parte Triple Sense che ha fatto questa tavola rotonda alla quale ho partecipato, devo dire che in realtà c'era veramente una grossa mancanza. Ed è un peccato perché oltre alle startup lì si intercettano dei trend da un punto di vista di business. E tornare indietro con una contaminazione, idee, semini per pensare sarebbe molto utile. Condivido, grazie a Pepe Moder per essere stato con noi, a grazie presto Enrico. E buon lavoro, ciao. Adesso parliamo di corruzione. Sì, avete capito bene, e uno potrebbe domandarsi: ma perché a 2024 parlano di corruzione? Perché ho parlato recentemente con una persona che è responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione all'interno di una pubblica amministrazione locale, che mi ha raccontato una esperienza che mi pare molto interessante. Come utilizzando tra l'altro risorse interne, cioè tecnologia e soprattutto tecnici interni, utilizzando tecnologia open source, quindi gratuita, oddio, non sempre l'open source è gratuito, ma in questo caso stiamo parlando di cose gratuite, come quindi all'interno di una pubblica amministrazione si è creato un software per mettere in pratica quello che ti obbliga di fare la legge. Però ne sa di più e ne ho parlato con Simonetta Rusciadelli, che è responsabile trasparenza e anticorruzione in Ater Padova. Ater è una società pubblica che si occupa di immobili pubblici, e così come in tutta la pubblica amministrazione, anche all'interno dell'organizzazione di Ater bisogna essere coerenti con quello che impone la legge. Sentite che cosa hanno realizzato. Beh, l'esigenza deriva dalla legge, perché la legge, la 190 del 2012, quella che ha proprio istituito tutto il pacchetto sull'anticorruzione, chiede di dare la possibilità ai propri dipendenti e a soggetti terzi, stakeholders chiamati così, di segnalare eventuali fatti corruttivi garantendole l'anonimato. Non possono fare segnalazioni anonime, perché non possono essere prese in considerazione. Devono dire le proprie generalità, ma poveri, non devono subire però procedimenti all'interno dell'azienda che possono portarli a subire, diciamo, dei fatti vessatori nei loro confronti, e quindi garantire l'anonimato. Quindi minacce, pressioni di vario genere. In questo momento ANAC ha messo a disposizione nel proprio sito un link dove tu accedi e c'è una pagina, un PDF compilabile, lo compili nome, cognome, fatto, fai invia. Questo però non garantisce a chi fa la segnalazione l'anonimato. E ANAC ha detto: io prima o poi sto elaborando un programmino da mettere a disposizione di tutte le aziende. Sì, ricordiamo che ANAC è l'Agenzia Nazionale Anticorruzione. Anticorruzione, sì. E ancora stiamo aspettando. Però nel frattempo questa legge è in realtà in vigore e tu devi dare questa possibilità. Allora abbiamo pensato di farlo noi. Internamente, perché abbiamo dei consulenti informatici molto bravi che possono permettersi di farlo, ci siamo messi a cercare in internet semplicemente scrivendo delle parole chiave tipo whistleblower, che è il segnalante, la parola in inglese per la segnalazione, o segnalazione anticorruzione. Non abbiamo trovato niente almeno di accessibile dall'esterno. Poi se c'è qualcuno che l'ha creato per segnalazioni interne, è un altro discorso, non riusciamo a trovarlo. Questo certo, invece... però è anche lo facciamo in questo momento, è anche un invito, certo, a segnalare, certo, magari a Radio 24 se esiste una procedura di questo genere, che adesso lei ci descrive. Che cosa avete realizzato? Allora, chiunque può accedere al nostro sito internet www.aterpadova.com, trova un link che si chiama appunto segnalazioni whistleblower. Nel momento in cui si linka, accede, mette il proprio nome e cognome, gli viene subito attribuito un codice crittografato, che sarà l'elemento univoco di identificazione di tutte le comunicazioni che avverranno tra questo soggetto segnalante e il responsabile anticorruzione. Quindi nel momento in cui accede a questo sito e si logga, diciamo così, e quel codice univoco molto complesso, JP, cioè non è Paperino 2. Non è Paperino, infatti, lo deve conservare questo codice, perché ogni volta che accederà con questo codice vedrà se io come responsabile prevenzione e corruzione ho intanto preso in carico la segnalazione, cosa ho fatto di questa segnalazione, potrei averla rifiutata perché manchevole o essere una semplice denuncia di cattiveria, diciamo così, oppure averla presa in carico, chiedere documentazione di riflesso, quindi chiedere a questa persona segnalante, guarda che se hai la copia della fattura, se hai il documento attestante o altri nomi di altri testimoni, comunicamelo. E c'è quindi un rapporto dare avere tra il responsabile prevenzione corruzione e il segnalante, tutto anonimo, tutto non intercettabile nemmeno dall'amministratore di sistema. Chi ha creato il prodotto non riesce a vedere niente di quello che succede all'interno del prodotto. Potrei dire che è una comunicazione end to end, così come le comunicazioni di WhatsApp. WhatsApp, Facebook non sanno e non possono accedere alle comunicazioni tra me e lei. Quindi in questo caso è più o meno la stessa cosa, cioè se io faccio una segnalazione lo saprò solo io e lei che è la responsabile anticorruzione. E io, essendo responsabile, non posso divulgarlo, sarei passibile penalmente, insomma, quindi non potrei farlo, certo. Ovviamente solo nel caso in cui mi venga chiesto dal giudice di dare il nominativo, io abbinerò il nome al codice crittografato con tutta la documentazione e la consegnerò al giudice. E tutto questo è fatto internamente, con software interno? Sì, software interno, e il nostro collega, che è lui l'ideatore informatico, quindi io non ne ho conoscenze informatiche, ha utilizzato dei sistemi che esistono tranquillamente, liberi, economici, insomma, per creare questo piccolo programmino che in realtà non ha una fortissima complessità, perché non richiede una fortissima complessità. Rinnovo l'invito che abbiamo fatto poco fa: se siete una pubblica amministrazione o se avete notizie di cose del genere, potete segnalarle a 2024@radio24.it. Ma visto che probabilmente poche sono, o forse nessuna pubblica amministrazione ha fatto internamente un software di questo genere, potreste riutilizzare l'esperienza, riutilizzare il software di Ater Padova. A questo punto spero che le caselle di posta elettronica di Ater Padova siano piene di richieste, sarebbe una buona cosa. Si sta facendo e si fa da tempo riutilizzo di esperienze, riutilizzo del software all'interno della pubblica amministrazione, ma non lo si fa abbastanza. Anzi, io sono per una centralizzazione di molti servizi, in questo caso dovrebbe essere l'autorità anticorruzione che fa un servizio magari basato su tecnologia open source, affidabile e robusto, e tutte le pubbliche amministrazioni lo possono utilizzare. Dunque, parliamo brevemente abbiamo parlato poco fa di blockchain, che è il meccanismo che sta alla base, che garantisce l'affidabilità del Bitcoin, questa moneta virtuale. Io credo molto a chi ritiene che Bitcoin sia più che una moneta, un bene rifugio, un po' come l'oro. Ci sono delle analogie con beni rifugio tipo l'oro. Però c'è chi crede che invece questa possa diventare anche la moneta del futuro. Probabilmente le monete del futuro rimarranno quelle che noi conosciamo, ma si baseranno gli scambi di queste monete sul meccanismo della blockchain, che è estremamente affidabile, sicuro, decentralizzato. Comunque c'è una notizia che in questi giorni ha fatto un pochettino di giro della rete, perché c'è un gruppo immobiliare italiano, Barletta, che ha messo sul mercato un palazzo con 123 appartamenti e ha annunciato come modalità di pagamento anche il Bitcoin. Allora, io penso che sia molto difficile che si presenti qualcuno a comprare una casa con i Bitcoin, però se succede, insomma, è una cosa interessante, non è impossibile. Sicuramente è stato un buon modo per far parlare di sé questo utilizzo, questo annuncio, perché è forse uno dei pochi al mondo, se non l'unico al mondo. Ricordiamo che comunque è possibile farlo. L'Agenzia delle Entrate è intervenuta qualche mese fa proprio per dire che si può fare, si può utilizzare il Bitcoin per pagamenti all'interno della nazione. Non sono vere tutte le cose che alcuni scrivono senza conoscere la materia, che tutto è non tracciabile, anzi è tutto tracciato e tutto tracciabile, perché tutto rimane appunto tracciato nella blockchain e pagamenti in Bitcoin. Poi magari un'altra questione è risalire da un indirizzo, risalire ad una persona, ma ci sono dei modi anche per fare questo. E comunque poi in questo caso, visto che poi uno compra la casa a qualcuno deve essere intestata, quindi mi sembra che sia proprio il caso meno indicato per suggerire utilizzi fraudolenti del Bitcoin. E poi di cosa parliamo? Perché nella moneta normale non ci sono utilizzi di fraudolenti? Insomma, chi vi dice queste cose dice cose sbagliate e non conosce molto bene la materia. Tra l'altro la società che ha fatto questo annuncio si è impegnata anche per favorire l'utilizzo del Bitcoin ad accollarsi le spese d'agenzia e anche le spese notarili, ma è solo un modo per cercare di incentivare l'utilizzo di Bitcoin. C'è chi chiede a 2024, chi chiede a me fondamentalmente di parlare di blockchain e di Bitcoin. Beh, stiamo parlando però di un mondo che è ancora un po' complicato, non è un tema popolarissimo. Stiamo parlando di un mondo che alcuni paragonano, ad esempio Giacomo Zucco, che è uno dei fondatori di Blockchain Lab a Milano, dice: siamo nella stessa fase di internet negli anni 90. Immaginate parlare di internet alla radio a metà degli anni 90, era una cosa piuttosto oscura, piuttosto complicata. Però vediamo, magari lo faremo, lo abbiamo fatto in passato, abbiamo parlato di blockchain e di Bitcoin, magari cercheremo di farlo anche in futuro. Il governo ha risposto ad Ivan Catalano, che è un deputato della lista Civici e Innovatori, che con un'interpellanza aveva chiesto il perché alcuni operatori di telecomunicazioni non permettono di utilizzare il proprio modem per accedere ad internet, ma impongono di usare il loro modem, che spesso non è nemmeno un granché. Quasi tutti i grossi operatori fanno questo. Allora, effettivamente ci sono alcune ragioni, non è che lo fanno... però ci possiamo discuterne. Infatti Catalano ha fatto un'interrogazione al governo, il governo ha risposto e dice: il modem deve essere considerato un apparato di rete e quindi parte integrante dell'infrastruttura dell'operatore. E uno potrebbe dire: ah, ok, perfetto, quindi a questo punto non capiamo perché io utente, se tu operatore mi imponi il modem, me lo fai pagare. Me lo paghi tu, e anzi dovresti pagarti anche l'energia elettrica, caro operatore. Comunque il tema è controverso, c'è una regolamentazione europea, però secondo il governo non si può fare riferimento a questa regolamentazione europea. Agcom, l'autorità garante delle comunicazioni, dovrà stabilire se e in che condizioni gli apparati forniti dalle società di telecomunicazioni sono o meno indispensabili al funzionamento tecnico della rete, quindi fanno parte della infrastruttura di rete. Però a questo punto mi sovviene un'altra domanda: ma quegli operatori che invece non te lo impongono, che cosa sono? Strani particolari. Però effettivamente ci sono alcune ragioni tecniche, non entriamo in dettagli tecnici, giusto per far sì che ci sia un minimo controllo sulla rete. Però alcuni ritengono che queste non siano ragioni sufficienti per imporre un apparato. Sentiamo comunque Ivan Catalano, che ha risposto al governo che ha dato questa interpretazione. Questa può sembrare una piccola cosa, ma definire la libertà di scelta del terminale di rete all'utente vuol dire dare libertà di accesso, vuol dire fare una politica attiva contro il digital divide, vuol dire aiutare le piccole imprese a poter investire, a sviluppare la loro, diciamo, il loro mercato digitale, perché consente alle imprese di avvalersi della migliore tecnologia di connessione alla rete presente sul mercato, senza dover ricorrere alla soluzione che è proposta dal provider. Stessa cosa vale per gli utenti, ci sono tanti utenti che vorrebbero utilizzare apparati di loro proprietà perché li reputano più performanti rispetto agli apparati forniti dal provider. Come ho ribadito anche la volta scorsa, quando è avvenuta la liberalizzazione, diciamo, l'apertura al mercato nei dispositivi mobili, sbloccando i dispositivi e dando la possibilità all'utente di poter scegliere l'apparecchio telefonico o lo smartphone che desiderava, c'è stata un'esplosione del mercato, c'è stata un'esplosione anche della libertà di accesso alla rete da parte degli utenti. Quello che è il mio obiettivo è quello di ripetere questa cosa per la linea fissa, dare più competitività alle imprese, garantire la libertà di accesso alla rete e sviluppare il mercato in una concorrenza sana e che ci consente di raggiungere anche gli obiettivi dell'agenda digitale europea, dell'agenda digitale italiana contro il digital divide. È tutto per questa puntata di 2024, come sempre grazie per la vostra attenzione, per aver ascoltato in streaming oppure scaricato questa puntata. E come sempre anche questa settimana l'edizione podcast, il nostro super podcast, presenta tutte le interviste in versione integrale. Ci risentiamo la prossima settimana, l'indirizzo di posta elettronica che potete utilizzare è 2024@radio24.it. Ricordate, il nostro programma va in onda il venerdì alle 22, domenica alle 13.30 con la nostra mini e breve replica. Ancora un ringraziamento e appuntamento alla prossima settimana.